Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono seduto a un grande tavolo rotondo di un caffè. Siamo in due, io e Francisca. Una ragazza bionda, con un ciuffo che le scende sul lato sinistro del volto e legge Cosmopolitan. Il caffè si chiama November, è elegante e il cameriere si deve chiamare Mattia, perché gli assomiglia. Ciao, sono Gabriele Avanzinelli, abito in Germania, in una piccola città chiamata Mörs, vicino a Duisburg. Ho 37 anni e insegno in una scuola inglese e tedesco. Guardatevi in giro ovunque vi troviate in questo momento, alle 16:08 minuti di un giovedì 4 di ottobre 2012. Guardate la persona che avete di fronte. Se la conoscete, amen, il gioco è finito. Se non la conoscete, continuate ad ascoltare, ma il gioco è finito. Se non la conoscete, invece, fate un gioco che fate probabilmente sempre, lo fate però senza accorgervene, e lo faccio anch'io senza accorgermene, semplicemente me ne ha fatto accorgere Gabriele, l'autore della storia di oggi. E fate questo gioco, cercate di immaginare la vita della persona che avete di fronte. 349-238-6666, in 140 caratteri se ce la fate, o altrimenti sul profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, e voi siete qui, Radio 24, o anche alla mail, voi siete qui, @radio24.it. Se siete in macchina, se siete al semaforo, guardate il tizio a fianco a voi sull'automobile, avete più o meno 15-20 secondi di tempo. Se siete in treno, anche se è strano, ma magari qualcuno l'ascolta lì, il tizio è seduto davanti, in metropolitana, uguale. Se siete in un negozio, qualcuno ascolta Radio 24 nei negozi? Se qualcuno l'ascolta, 349-238-6666. Giochiamo al gioco in diretta in questo momento, alle 16:09 e 30 secondi. Immaginate la vita della persona che avete di fronte e raccontatela. Se volete, dateci anche qualche dettaglio, chiaramente, sull'età, sul colore della pelle, dei capelli, degli abiti. Però l'importante è che immaginiate che tipo di persona è. 349-238-6666. Sul profilo Twitter del programma, perché abbiamo anche un profilo Twitter che si chiama... Aspetta che te lo dico, Paolino si chiama... Dov'è? Ah, è qui! Voi siete qui, R24, Marco Tulli, non ci vuole neanche tanto, anche tu che non usi Twitter. Ah no, da sabato anche Alessandro Marco Tulli conosce Twitter grazie al corso che si è tenuto qua sotto nelle sale. 349-238-6666. Su Twitter Stefania scrive: credo che la vita della persona di fronte a me sia disordinata, fatta di dormite sul divano e momenti inquieti. È cresciuto al villaggio Mosè di Agrigento. Questo non ho capito, Stefania. Cioè, da come ti è arrivato che il fatto che è cresciuto al villaggio Mosè di Agrigento. Miria, uomo, cinquantina, sguardo intenso e triste, rincorre i pensieri con il riflesso del monitor sul viso, la realtà è diversa dai sogni. Wow. Lisa, è colorata, quasi certamente nonna, amorevole, non ha mai viaggiato, è olandese, un pelo xenofoba, sola di fatto, ama il caffè. 349-238-6666. Il gioco di oggi è quello di immaginare in tempo reale la vita della persona che avete di fronte e scriverla al 349-238-6666. Tutto perché qualche tempo fa Gabriele era in un caffè di Berlino e aveva di fronte a sé una ragazza che si chiamava Franziska. Oggi non so che data sia, so che è domenica, che è febbraio e che il mio orologio al quarzo segna le 21:29. Sono seduto a un grande tavolo rotondo di un caffè e siamo in due, io e Franziska, una ragazza bionda con un ciuffo che le scende sul lato sinistro del viso. Legge Cosmopolitan. Il caffè si chiama November, è elegante però alla mano. Le pareti sono dipinte di colore bianco, semplici. 6 lampade di cera gialla pendono sopra il bancone del bar. Il cameriere si deve chiamare Mattia, perché gli assomiglia. Io ci andavo spesso in inverno e Franziska la incontrai un pomeriggio mentre mi bevevo il mio caffè. Stava aspettando a lungo e giocava nervosamente col sottobicchiere delle birre tedesche, finché a un certo punto si alzò in maniera molto agitata, si pagò, scappò via infilandosi la giacca molto velocemente. Mi fisso per un attimo a guardare Franziska che va avanti a leggere. Poi tolgo lo sguardo e continuo a fissarla con la mente perché ho paura che mi scopra. Aspetta Lucas. Le ha promesso che sarebbe venuto e lei ci ha creduto. Per ammazzare il tempo, Franziska, con un tono di voce molto basso, tipico delle ragazze berlinesi, ordina un caffè. Non è timida. È solo che è stata cresciuta da una mamma che le ha trasmesso quel tono sin da quando era nella sua pancia. Franziska, anche volesse, non saprebbe parlare più forte. Bisognerebbe che urlasse. Non per questo è più cortese o gentile, eh? Anzi. Franziska fa l'assistente sociale in una casa di recupero di ex tossicodipendenti turchi, con gravi disturbi di personalità. È contenta del suo lavoro. Ha un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio discreto, che le permette 15 giorni di spagna l'anno e tutte le domeniche libere, trascorse a letto, reduce da notti trascorse a ritmo di musica techno. Conosce Lucas da 5 giorni. Lo ha incontrato alla festa di compleanno di Andreas. Ha parlato tutta la sera con lui del suo nuovo appartamento, di quanto sia stato difficile trovarlo e dei colori che ha pensato di usare per dipingere la cucina o il bagno, il corridoio. La camera no, per la camera ha già scelto un colore, è un giallo ocra. Poi gli ha mostrato la sua borsa gialla che si è cucita da sola con la stoffa di uno striscione pubblicitario rubato per strada di notte dopo una manifestazione sportiva. Lei parla sempre, lui ascolta in silenzio. Cucire è la sua grande passione da sempre. Diventare stilista è il suo sogno. Il caffè però è finito. Lei sfoglia Cosmopolitan, l'ho già sfogliato almeno 3 volte. Ogni tanto si ferma a leggere una didascalia o a guardare l'orologio. Si alza, va in bagno. Anzi no, torna troppo in fretta per esserci stata. In mano ha un pacchetto di Gauloises bionde, comprate all'automatico, fuori dalle porte dei bagni. E nell'altra ha 2 cartoline pubblicitarie, prese dalla bacheca accanto al distributore di sigarette. Me la sono immaginata così perché era molto nervosa, perché aspettava una cosa che non arrivava, era un'anima irrequieta, era molto agitata, perché giocava molto con questo posabecchiere di cartone, toccava il tavolino, era molto non tranquilla. Io bevo la seconda birra e la mia mente si fissa su Lucas, che in questo momento è a letto, che dorme. Ieri ha bevuto troppa birra per potersi ricordare che questa sera avrebbe dovuto incontrare Franziska. Lei allora prende una penna dalla borsa gialla e inizia a scrivere una cartolina. Scrive sicura, veloce, qualcosa di breve. Poi si infila la giacca, va alla cassa, paga ed esce veloce. Alzo gli occhi. Sul tavolo Franziska ha lasciato la cartolina girata con la scritta verso il basso. C'è rappresentata sopra una fila di aspirapolvere che puliscono un campo di erba verde. Prendo la cartolina, mi giro verso la porta per vedere se Franziska ci sia ancora, ma lei non c'è più. È già sulla sella della bicicletta che pedala veloce, piangendo verso casa. Leggo la cartolina. Lucas, buonanotte. Mi alzo, pago ed esco. Fuori sul marciapiede l'incarto di un Twix viene spazzato via dal vento. Un vento che soffia forte dal fondo della strada e che mi fa rabbrividire. Si porta con sé ogni cosa che incontra, te la sbatte addosso. Salgo in bici e a fatica pedalo verso casa, pensando a Franziska, seduta al caffè. Ci ho messo un po' a capire il racconto di Gabriele. L'ho riletto un paio di volte e ho anche chiesto conferma a Tiziano Bonini che non avessi capito male io. Dunque, Gabriele è in un bar a Berlino e seduta al tavolo vicino a lui c'è una ragazza bionda con un ciuffo che le scende sul lato sinistro e si chiama Franziska. Noi in realtà non sappiamo se si chiama davvero Franziska, però diamo per scontato che sia così. Così come diamo per scontato che sia timida, che sia cortese e che sia gentile. Poi però, man mano che la storia procede, ci accorgiamo che Gabriele non può sapere così tanto di lei, perché ne parla quasi come se fosse il suo amico più intimo. E se non è così, allora l'alternativa è che lui si stia inventando qualcosa. Non tutto, non serve che si inventi tutto da zero. prende semplicemente alcuni elementi che vede in lei e li trasforma in una storia plausibile. E questo è un bel esercizio per passare il tempo e per tenere allenata la mente. Immaginare storie che non esistono, se non nella nostra testa. È un gioco che facciamo tutti e molto più spesso di quanto immaginiamo. Lo facciamo sul tram, osservando una persona che per qualche motivo ci interessa. In auto, in coda al semaforo, o al ristorante, quando osserviamo una coppia seduta al tavolo vicino al nostro e cerchiamo di capire e di immaginare la loro vita. Leggere il racconto di Gabriele mi ha fatto venire voglia di provare a farlo anch'io. E visto che qui, in redazione, da qualche giorno sono arrivati due stagisti nuovi, sono un ragazzo e una ragazza, non lavorano con me, quindi li conosco poco, ci provo proprio con loro ad immaginare chi sono e cosa stanno facendo proprio adesso, alle 16:19 di giovedì 4 ottobre 2012, in questo momento preciso. Lo studio qui, dove mi trovo, ha le pareti di cristallo, quindi io li vedo nitidamente di là dal vetro. Ora sono seduti dietro il loro computer. Lei ha i capelli castani, mossi, le scendono sulle spalle. Ha l'espressione molto seria, ma sembra più che altro quella di chi pensa che sia opportuno sembrare seri in un posto di lavoro nuovo. Sta parlando al telefono, probabilmente con un ospite che deve convincere a partecipare alla trasmissione di cui si occupa. Non vedo lo schermo del suo computer, però immagino che ci sia probabilmente aperta la pagina del software che gestisce tutti i file audio della radio. Però iconizzata in basso alla sua pagina Facebook, in cui sta guardando le foto del suo ragazzo. Lui è rimasto a casa, lontano da Milano. Con lui ha trascorso una splendida estate e lo rivedrà forse al Ponte dei Morti, se va bene. Se va male, invece, alle vacanze di Natale. Non so come si chiami lei, però direi così, a naso, Serena. O forse Ilaria. Lui, invece. Lui ha la barba e gli occhi scuri. Avrà intorno ai 27 anni, l'età in cui si continua ad essere giovani in Italia nel 2012. Lui è in piedi di fianco a una redattrice esperta che gli sta mostrando qualcosa, perché lui è chinato e guarda lo schermo del suo computer di lei. A lui lei piace, anche se lei è più grande e più esperta di lui. Forse gli piace proprio per questo, perché quando qualcuno ti segue e ti insegna qualcosa, ti senti un po' preso per mano. È tifoso della squadra di calcio della sua città, lui, che potrebbe essere da qualche parte nel nord-est di questo paese. Lui a casa ci torna più spesso della sua collega stagista, ma forse preferirebbe non tornarci, perché là c'è qualcosa con cui vorrebbe chiudere, anche se forse non ne ha il coraggio. Non so come si chiami neanche lui. Forse Federico, forse Mattia. Tania scrive: sono in albergo, c'è una ragazza al bar, legge un libro, sicuramente si è appena laureata, è felice, piena di aspettative e sicuramente innamorata. L'anno prossimo avrà un bambino bellissimo che si chiamerà Francesco e sarà il suo unico figlio. 349-238-6666, immaginate la vita della persona che avete di fronte a voi in questo preciso momento. La stessa cosa l'ha fatta Gabriele, l'ha fatta qualche tempo fa, non era però né al lavoro né in auto né sul treno, era in un bar di Berlino. Pronto Gabriele? Pronto. Ciao, come stai? Bene. Dal primo pronto non sembrava proprio benissimo, Gabriele. Benissimo. Ok. Il sole, sto bene. Ok, dove ti trovi esattamente? Mi trovo in una cittadina vicino a Duisburg che si chiama Mers. Cosa ci fai a Mers? In Germania, in una cittadina vicino a Duisburg. Attualmente ascoltavo Radio 24. Ok. Normalmente insegno in una scuola, è una scuola pubblica. Inglese e tedesco. Quindi allora, rimettendo le cose a posto, Gabriele, tu hai quanti anni, me lo ricordi, scusami? 37. Hai 37, sei del 75? Bravo. Ok, come me, sei del 75, hai 37 anni, sei di Lucca, però vivi in Germania da quanto? con un'interruzione di 3 anni dal 1996. Perfetto. E insegni in una scuola pubblica tedesco e inglese, hai detto? Esatto. E ecco, la prima domanda che viene proprio naturale è: da Lucca a Duisburg, Mers? Mers, la città di Mers. Come ci si arriva? Ci si arriva passando da Berlino, stando a Berlino 9 anni, poi per nostalgia tornando a Firenze 3 anni e poi ritornando in Germania. Ma e come mai sei arrivato? Non hai mai avuto esperienza di insegnamento in Italia? Sì, ho fatto la scuola di specializzazione a Firenze, cioè ho preso l'abilitazione a Firenze e poi sono tornato, mi sono laureato in Germania, sono abilitato a Firenze e poi sono tornato in Germania. No, perché Gabriele, lo racconti come se fosse la cosa più normale della terra, no? Che un italiano insegna la lingua tedesca in Germania. Non è esattamente così. Dico, tu non hai molti colleghi come te. No, però avrei potuto averli se bastava fossero partiti. Questa non è male come indicazione. Quali sono i vantaggi di fare questo mestiere? Scusami. Da capo, quali sono i vantaggi di rispetto all'Italia? Guarda, sono due le domande. Quali sono i vantaggi di vivere in Germania e quali sono i vantaggi di fare il tuo mestiere in Germania rispetto all'Italia, ovviamente? Allora, i vantaggi di vivere in Germania sono che il tempo è così brutto che quindi sogni e scrivi e ascolti la radio. Ascolti la radio, esattamente. Ok. E invece praticamente come? E invece di insegnare E insegnare sono che si lavora molto più velocemente, si guadagna il doppio di quello che si guadagna in Italia. Ma e sei di ruolo? Sì, da quest'anno sono di ruolo. Quindi mi sono abilitato 5 anni fa e avrei dovuto aspettare in Italia forse ancora 10 anni prima di avere un posto fisso. E allora ho detto no, non ce la faccio. Quante ci vengo in vacanza. Quante ore insegni a settimana? In Germania si insegna di più che in Italia. Io insegno in una scuola superiore, insegno 25 ore a settimana. E come sono? Beh, non in Italia se ne insegna 18. Non sai come sono i ragazzi italiani, quindi non posso chiederti che differenza c'è tra avere degli allievi tedeschi e avere degli allievi italiani. Però ascolto i colleghi, le differenze non sono molte. Ah, ok. Senti, invece veniamo a Franziska, scusami Gabriele, perché allora la questione è: tu sei seduto a un caffè a Berlino, vedi questa ragazza, i dettagli che hai sono come è fatta lei e la lettera, diciamo la cartolina che lascia sul tavolo, giusto? Sì. Poi tu prendi però, mi sembra di aver capito, dei pezzi della vita di una persona che conosce e glieli attacchi addosso. Esatto. Quindi invento la sua vita. Invento la vita degli altri, mi è piaciuto il titolo. Quindi scusami, quella ragazza non si chiamava Franziska, però, e poi chiudo. No, certo che si chiama Franziska. Ok, lei si chiama Franziska. No. Ma la vita che tu hai immaginato appartiene a qualcun altro o è totalmente inventata? Quello non ve lo dico. Va bene, preferisco così. Gabriele, senti, ti ringrazio per la chiacchiera e per il racconto. E buon lavoro in Germania. Grazie, buon lavoro a te. Ciao, a presto. Ciao. Grazie mille. Silvia scrive: io esamino spesso postura, direzione dello sguardo, espressione del volto, se usa orologi, se ha anelli, se i capelli e le scarpe sono curati. È un gioco, questo che faccio spesso. Gabriele si è fatto un autoscatto e la foto che potete trovare sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, è in riva a un fiume, immagino, o a un lago, probabilmente. No, è un fiume perché si vedono entrambe le sponde. Lui ha una bicicletta alle spalle, quindi starà facendo una di quelle passeggiate che si fanno sicuramente in bicicletta, sicuramente lungo i fiumi tedeschi che hanno delle piste ciclabili meravigliose. Lui si vede giusto il collo, quindi probabilmente ha su una magliettina. È estate, o forse l'estate sta finendo da poco perché la luce del sole è abbastanza bassa. Quindi alle sue spalle ha la bicicletta, ha uno sterrato in riva al fiume, il fiume ha gli occhiali da sole, quindi degli occhi e del suo sguardo non si vede niente. Immaginazione. Libera e astratta riproduzione o elaborazione di dati sperimentali o fantastici. Facoltà di cogliere il valore di un'ipotesi o di un'interpretazione a livello superiore. Capacità di formulare ipotesi o previsioni. Attività o situazione definita da una partecipazione più o meno intensa al mondo dell'astrazione o della fantasia. Etimo, dal latino, imaginatio, imaginationis, data prima del 1294. Quindi imaginatio, imaginationis, ozionis, è chiusa. È chiusa, sì, credo che sia chiusa, Alessandra. Voi siete qui, @radio24.it, se siete degli ascoltatori affezionati di Radio 24 e se vi piace l'arte, se avete in particolar modo una passione per Picasso, segnatevi questo indirizzo, voi siete qui, @radio24.it, perché regaliamo dei biglietti per gli ascoltatori di Radio 24 e nel nostro caso per gli ascoltatori di Voi Siete Qui, per una serata particolare dedicata solo agli ascoltatori della radio. Se siete a Milano nei dintorni o se passate da queste parti mercoledì 24 ottobre a Palazzo Reale, dove si tiene la mostra di Picasso, a partire dalle 21 ci sarà questa serata che, ripeto, è dedicata solo agli ascoltatori. È un regalo che la radio fa a tutti gli ascoltatori. È una serata in cui si racconterà chi è capace di farlo, si racconterà la vita, la storia di Picasso, si vedranno ovviamente le opere di Picasso esposte a Palazzo Reale, che è uno dei, diciamo, è il luogo dell'arte milanese. No, più che dell'arte, delle mostre milanesi in assoluto. E nella serata ci saranno alcuni conduttori della radio, tra cui io, e ci sarà un piccolo spettacolo, una piccola performance di Gianluca Nicoletti e Barbara Alberti alla fine della serata. Per partecipare a questa serata, quello che dovete fare per quanto riguarda noi è inviare una mail a voisietequi@radio24.it raccontandoci una piccola storia che vi è accaduta di fronte o nei pressi di un quadro di Picasso. Voi siete qui, @radio24.it. Io invece continuo con il gioco che stiamo facendo grazie alla storia di Gabriele, che è quello di immaginare la vita delle persone che non conosciamo e che sono di fronte a noi. Sono arrivati due bellissimi messaggi sul profilo Facebook del programma, sono uno di Paola, l'altra di Lorena. La persona che ho di fronte a me è una donna bellissima, sui 45 anni, gli occhi fissi sullo schermo e le dita che scorrono veloci sul computer. È così assorta che se non fosse per il ticchettio dei tasti di plastica sulla tastiera Dell, penserei che stesse suonando un brano al pianoforte. Ogni tanto alza gli occhi assorta e, appena acchiappato l'idea, sembra riaccompagnarla sullo schermo con forza attraverso le mani affusolate. La sua vita credo sia complicata. La immagino correre tra figli, lavoro e la costruzione di una nuova vita, la vita che merita e che sicuramente avrà. Siamo in ufficio, non ho tempo di continuare, ma lei è così bella, così appassionata nel suo lavoro, che meritava questa descrizione. Io invece sono all'INPS. Di fronte a me ci sono due ragazzi, un ragazzo italiano e una ragazza credo ucraina. Avranno 25 anni, non di più. Il ragazzo ha in mano un iPhone, ascolta musica, è completamente perso nel suo mondo. Mi sembra un ragazzo molto spensierato. Io sono qui da circa 20 minuti e non ha staccato lo sguardo neanche un istante da quell'apparecchio. La ragazza invece legge un libro, La città della gioia. Ogni tanto guarda lo schermo in attesa del suo turno. Mi sembra una persona molto tranquilla, forse anche timida. Oppure no, è semplicemente è che ha molte responsabilità da gestire. Ha come segnalibro la foto di due bambini, uno sui 5 anni e il piccolo 2 o 3 anni. I bambini portano una divisa tipo alla marinara. Ogni tanto lei prende la foto e la fissa e si disegna un sorriso sul volto. Poi continua a leggere. Ecco, è arrivato il mio turno. (349) 238-6666. Qualcuno che ha provato ad inventarsi le vite delle persone che avevano di fronte. Sono in auto, uomo sessantina, sembra più un agricoltore dal colore della pelle, più di cosa non lo so, però sembra un agricoltore dal colore della pelle. Deve aver preso molte multe visto la velocità con cui ha guidato negli ultimi 20 chilometri, scrive Pina. Cristina invece da Parma mi dice: uomo in moto disperato, lo ha lasciato l'amorosa e lui scappa. Lui ha 29 anni ed è ben curato. Invece ricordo a quelli che mi chiedono quali sono i brani che mandiamo, l'ultimo in particolar modo, o quello di XX prima, XX è il nome del gruppo, no? Era il primo brano, che tutti i brani che mandiamo, che sceglie Tiziano Bonini, che sentite in onda e che di fatto mandiamo una volta e basta, lo trovate sulla pagina di Radio 24 al sito di Voi Siete Qui. Trovate un bel po' di cose sulla nostra pagina nel sito e trovate chiaramente un pezzo della storia di oggi, trovate la foto che vi racconto, ma e la mappa che stiamo continuando a comporre. Però trovate appunto i tre brani che sono linkabili e quindi se ci cliccate sopra andate a finire direttamente su YouTube, vi guardate e vi ascoltate il brano. Ma per quelli che invece mi chiedono, ma le basi che usate, come facciamo a sapere quali sono? Ogni tanto qualcuno mi scrive: qual è la base di Archi che hai usato oggi? Che tipo ne usiamo magari 4 o 5 a volta. Bella quella base che hai usato mentre raccontavi quella roba e descrivevi. Allora, andate, c'è un canale YouTube del nostro programma, quindi o scrivete Voi Siete Qui su YouTube, altrimenti dalla pagina del sito di Radio 24 c'è proprio il canale YouTube di Voi Siete Qui, ci linkate, e anche Facebook e anche Twitter. 349-238-6666. Emanuele mi ha scritto: quando ho letto il tuo post, quello in cui chiedevo appunto di descrivere la persona che era di fronte, ero davanti a un giudice in attesa dell'udienza. Il magistrato stava lì con lo sguardo sereno di chissà di poter fare qualcosa che potrebbe cambiare la vita a chi si sottopone al suo giudizio, e ho immaginato una vita di pensieri, scrupoli e magari anche rimorsi per decisioni sbagliate in un senso o in un altro. Mi sono sentito sereno nel non essere nei suoi panni. E poi ancora qualcuno mi scrive che è la seconda volta che ascolta il programma, Fabiola per l'esattezza, e si è immaginato come sono fatto io. Però questo direi che è decisamente meno interessante. 349-238-6666. Se ti piace la storia che hai letto, devi leggere un libro che si chiama Nel caffè della gioventù perduta di Patrick Modiano, mi scrive Paolo. Io ho dato un occhio, e però ve lo commento la prossima volta. Grazie a Paolino Corleoni, Margherita Ina, Tiziano Bonini e a soprattutto Gabriele. Oggi era la sua storia e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Mary, vengo dalla provincia di Varese e la storia che sentirete domani è la mia, e parla di lasciarsi andare, di uomini e anche di donne. Questa è la mia storia e io sono qui.